passione, regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella, regina di cuori, ti vesto di fiori, ti giuro l'amore, ma non eterna fedeltà. Mammi, non mammi, ma mammi, mi mammi. O forse sì. Oh no. Oh, mammi, succede, succede un fine in mondo, perché l'amore amaro, mare, meraviglioso e mentale, e il cuore ha un altro dolce in gola, mi lascia e poi ti lasci andare, per poi ritornare. Regina di cuori, da mille dolori, sei sempre più bella, e nella notte è la mia stella. Regina dei fiori, stratega d'amore, tu muovi felina, con la certezza del tuo sesso. Oh oh, mami non mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Mami non mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Oh, oh, oh, regina di cuori, mi mandi di fuori così. Genera rossa, è una spina, genera spina. Io vivo tra mille tentazioni e pensieri peccaminosi. Papà, papà, papà, perché ogni storia è una farfalla in fasce che ci trasforma, altrimenti non cresce. Si trasforma, ci trasforma. Regina di cuori, dai gioie e dolori, li do pure io, se non sto bene con me stesso. Veleno d'amore, regina del mio cuore, la tua strategia è solo ponte tra i due sessi. Mammi non mammi, ma mammi, dici che mammi, non so se mi ami. Mammi non mammi, ma mammi, dici che mammi, non so se mi ami. Regina di cuori, mi mandi di fuori così. E allora mami, non mami, ma mami, dici che mami, non so se mi ami. Forse che sì, forse che no, forse si può, forse non si può. Mi mandi di fuori, regina.